Ciao, io sono Laura Voltolina e questa podletter è In ballo, ovvero bufere, radici e un regalo. Certe volte credo di essere ancora nel mezzo della tempesta e invece a un certo punto mi accorgo che ne ero già fuori. Il cambiamento è avvenuto prima, indietro nel tempo e non me ne ero resa conto. C'è uno spazio, un mentre, tra la me che sta attraversando il cambiamento, che diciamolo pure spesso è turbolento e somiglia parecchio ad essere nel bel mezzo della bufera, senza non dico un rifugio ma nemmeno un ombrello di conforto, ammesso che un ombrello possa servire in una bufera. E la me che si rende conto che il cambiamento è successo. Eh no, non me ne accorgo subito perché sono ancora tutta concentrata nel tentativo di resistere, tutta focalizzata a immaginarmi come sarò quando la bufera sarà passata. E quello che sono a tempesta passata è differente da quello che credevo sarei stata. Il piano di veglia, come lo descriverebbe la mia amica Silvia, ciao Silvia, non corrisponde mai esattamente al piano di sogno. Ma se non avessimo un piano di sogno, non avremmo mai cambiamenti. La tempesta può avere qualsiasi origine lavorativa, sentimentale, familiare, ereditaria. Può essere il luogo in cui abitiamo, l'ambiente in cui cerchiamo di fiorire e invece non ci nutre. Ci sono miliardi di tempeste, tutte con sfumature differenti. Non ne attraversiamo mai due uguali nella nostra esistenza. Quando siamo nel bel mezzo della bufera, il cambiamento lo abbiamo già fatto. E la bufera stessa è frutto di quel cambiamento. È il piano di realtà che segue il piano di sogno. Sono l'unica a starci scomodissima mentre la tempesta infuria intorno? Non credo. Può darsi che soltanto io, insieme a quei Viet Cong che anni dopo la fine della guerra stavano ancora nascosti nella giungla, non mi accorga che la bufera è passata da un pezzo. Ma nella mia esperienza è una percezione piuttosto diffusa. Il cambiamento richiede di radicarci, di uscire dalla gabbia delle aspettative, delle etichette, delle proiezioni, dei preconcetti, dell'idea di perfezione. Perché no, lì dentro non esistono radici, la parte saggia di noi lo sa già benissimo. Le nostre radici hanno origine molto lontana. Siamo partiti dalle stelle e possiamo unirci al cuore della Terra. Questo è il radicamento che possiamo creare per darci il permesso di crescere e fiorire. Stare con i piedi per terra ha sempre significato smettere di sognare, iniziare ad essere persone serie, ligi alla concretezza e al duro lavoro. In realtà, a partire dalla realtà somatica, cioè dal nostro corpo, è fondamentale restare con i piedi per terra, proprio per poter sognare bene. Per poter stare in piedi davvero, aprire la visione che abbiamo di noi stessi, dentro e fuori dalla bufera, della nostra vita, della versatilità delle nostre energie, dei nostri talenti, delle nostre capacità. Queste radici che arrivano dalle stelle sono la base solida. E quando abbiamo radici salde, possiamo volare. La parte del regalo. Martedì 26 marzo, tieniti libera. Tieniti libero. Dalle 20 alle 21, lezione aperta di yoga e mitologia online, dal tema Il cuore del cielo. Un incontro riservato esclusivamente alle persone iscritte a questa newsletter è un regalo che faccio a te che sei qui adesso e che mi leggi e ascolti. I posti sono pochi perché ci tengo a poter seguire ciascuno al meglio anche online e nella mia esperienza vengono occupati velocemente. Ecco come partecipare. Verifica di avere l'agenda libera per martedì 26 marzo dalle 20 alle 21. Metti in agenda l'appuntamento. Scrivimi subito per riservare il tuo posto. Tieni conto che le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti e comunque non oltre martedì 26 marzo alle 12 e l'incontro non sarà registrato. Vuoi partecipare insieme a un amico o un'amica? È sufficiente che entrambi siate iscritti alla newsletter, quindi manda il link alla persona insieme alla quale vuoi partecipare. Riceverete il link Zoom con le indicazioni per la diretta. Ci vediamo dall'altra parte dello schermo per questa avventura. La parte delle stelle. Tutti i martedì di aprile, in diretta dalle 19.30 alle 21 e con registrazioni a disposizione per una settimana almeno, Il cuore del cielo, risvegliare l'intuizione, 4 incontri di yoga e mitologia online. Ecco il dettaglio dei singoli incontri. Primo appuntamento, non è Saturno contro, guarigione e azione. Secondo appuntamento, non è Star Wars, coscienza e tempo. Terzo modulo, non è ET, speranze e proiezioni, la differenza è importante. Quarto appuntamento, non è Interstellar, direzione autentica. Puoi partecipare anche se non hai mai seguito yoga e mitologia con me, anche se non hai mai praticato yoga, anche se sei un insegnante di yoga, anche se vuoi partecipare a un singolo incontro, è possibile, guarda la brochure. Insomma, per qualsiasi anche se ti venga in mente, scrivimi, non farti fermare dalla gabbia di un'etichetta, di un pregiudizio, di un preconcetto. I posti sono limitati e in parte già occupati, quindi scrivimi e basta. La parte delle radici. Weekend yoga sulle colline toscane da venerdì 10 a domenica 12 maggio presso il Podere del Pereto. Il posto giusto, il momento giusto, il gruppo giusto, l'ambiente giusto per scoprire radici per volare, stabilità e libertà. I posti disponibili sono ancora più limitati del consueto e c'è uno sconto se ti iscrivi con un amico o un'amica. Contattami subito. La parte del genio. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio, weekend yoga sulle colline toscane. Esploreremo lampi di genio alla scoperta di nuove idee. È un percorso affascinante e, se hai seguito l'omonimo percorso online, è bene che tu sappia che le attività del weekend yoga sono completamente diverse. Consueto sconto se partecipi con un'amica o un amico. Scrivimi subito, c'è meno tempo di quello che credi. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Patrick Fermor, dal suo Tempo di regali. La mossa successiva fu il mio primo atto indipendente e, come si rivelò poi, con una serie di colpi di fortuna, anche il primo atto sensato di tutta la mia vita. Un abbraccio col cuore che contiene il senso di tutto. Laura.